quei giorni lì, siamo solo amici, in quei giorni lì, non si va in bici, in quei giorni lì, rifletto sui miei sentimenti, in quei giorni lì, non mi prende il cellulare, in quei giorni lì, ho molto da fare, in quei giorni lì, se usciamo mi porto l'iPod. Dici che sono uno stronzo e questo ci basta, ma non è colpa mia se penso alla dinamica di flusso e spero in una lesta e mostra di città e tutto si risolverà. In quei giorni lì non mi dire che mi ami, in quei giorni lì non c'è motivo che mi chiami, in quei giorni lì se non puoi uscire pazienza, in quei giorni lì mi ricordo degli amici, in quei giorni lì al Vangelo siamo Ligi, in quei giorni lì risparmio un sacco di soldi. Che sono un bastardo e questa è la natura, ma cosa posso farci se un po' mi fa paura? Non è un concetto che si applica al mio cervello e poi non è nemmeno bello. Facciamo pace dai, ma sì che sto scherzando, ti voglio vedere lo stesso anche ipotizzando che sarà arrabbiata in preda a qualche strano cruccio, ma posso sempre sperar nel